per me, e di nuovo per me, forse neanche un caffè, forse neanche un caffè, neppure una tazza di tè, e neppure una tazza di tè, in questa vita che va forte verso il futuro, che non promette le Alpi, le piramidi e le meraviglie, sette, quando solleti col mondo, faccio un gran giro tondo, non riesco mai a capire dove vorresti andare, ma se tu vieni con me, niente di nuovo per me, niente di nuovo per me, sotto una pianta di tè, nell'orizzonte che c'è, sotto quel cielo stellato del mondo che si è svegliato, ma non si accorge di te, la Nuova Zelanda è lontana, l'Australia non è vicina, vorrei una verde collina e rotolarmi giù più giù, come nelle grense di un proprio fino in fondo, a questo corpo mondo che va e che viene, e che ci tiene incatenati al tempo, che fugge ora veloce ora lento, ma sempre in fermento, come una nave senza vento. Plastica blu che ti fa sentire il blues, come Seattle Grunge, Copacabana Room, bianco come il Bacardi o giallo come la Havana Club, dentro la Coca-Cola che viene in discoteca, mentre smantello il cellulare con la motosega, mentre ballo come un pazzo sulla pista più trend, e vedo te che di fianco a me fai sul palo la lap dance, dentro il fiume col petto di paillette, come uno struzzo che si appresta alla battaglia con le orde, dentro il palco alzato est. Infatti la gente non arriva a fine mese e si sta meglio nel terzo mondo che a Milano, perché ci sono ladri, testa se ne occupa ma nessuno fa niente, per favore almeno tu dammi una mano, se entri nel metro esci senza mutare, se vai in vacanza lontano ti trovi la casa occupata al ritorno, lasci qualcosa in macchina, la trovi nella casa, se dici qualcosa a qualcuno ti arriva un'altra in casa, ma poi magari ti fanno la multa, perché sei senza catena, anche se da noi non nevica più dal pleistocene, sono solo sporchi trucchi per fregarti la grana, altrimenti la paga, l'estro di turno, per la serata io non mangio gli amici o alla cena di gala. Te di nuovo per me, te di nuovo per me, forse neanche un caffè, forse neanche un caffè, e neppure una tazza di tè, e neppure una tazza di tè, rimane solo questa vita che è diventata brutta come la figlia di Fantozzi, infatti prima ti divertivi come un matto, adesso invece è tutta piena di merda e di muffa, sei sempre sottostrato, fai fatica a tirare avanti, devi stare attento a tutti gli sguardi, devi sperare di riuscire a emigrare in Norvegia, dove tutto funziona a meraviglia, ancora meglio più lontano, tipo Nuova Zelanda, dove al massimo cade una piccola frana, altro che allagamenti di massa tipo Genova, ti ritiri su una verde collina, trovi una bella compagna carina, che sembra una pin-up al copertino da calendario Pirelli, e poi ti ritiri ad allevare pecore merino, e di tanto in tanto magari pensi all'Italia disfatta dai lati, e ti copo un pochino. Bella, you can feel me like a stella shining in the moonlit skies with the clouds around my face. Anytime I see your body making flexes around the strobing, I feel good, I feel good. Eccomi qua, qui Delta Sound, alla fine del 2014. Oh, okay.